Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è rare la zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Cruciani, non, sia non è uno scherzo questo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo, vi voglio bene, però volevo protestare con la proprietà. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Basta con queste stronzate del traffico, della porta, non frega niente a nessuno. Lancio una proposta, facciamo una colletta noi ascoltatori e sovvenzioniamo noi il tempo della pubblicità e noi sentiamo più zanzara. C'è una signora che è uno dei principali collaboratori del sindaco di Roma Marino. Credo che sia, non so che cosa, il capo della segreteria, il capo di gabinetto, una tale che si chiama Matarazzo, che non l'ha eletta nessuno, se non sbaglio, la quale stamattina si è presentata in un programma radiofonico qui su Radio 24, 24 mattino, e sostiene che le mogli dei romani che vanno a prostitute devono essere informate del fatto che i loro mariti ogni tanto si permettono qualche scappatella. E dunque hanno in mente, siccome a Roma ci sono problemi di poco conto, siccome Roma è una città governata molto bene, siccome a Roma tutto fila liscio, si sono messi in testa di mandare le multe, una cosa che fanno molti sindaci, come sapete, perché ne parliamo spesso qui alla Zanzara, molti sindaci in tutta Italia, di piccoli comuni, si sono messi in testa di multare i clienti delle prostitute a Roma, a Roma. Ma con tanto di sanzione che o uno paga subito o ti arriva a casa, perché sa qua. No, ti arriva a casa, così le mogli saranno liete di ricevere. proprio così, la gogna. Cioè, il vice capo di gabinetto di Marino parla delle mogli dei romani che vanno a prostitute. Il vice capo di gabinetto di Marino, che credo che non sia stata eletta da nessuno, si permette così di fare ironie sui romani che vanno a prostituta, così le mogli saranno ben liete di ricevere una multa a casa. Cioè, lei pensa che il problema principale, di uno dei problemi di Roma da risolvere, sia quello di mandare alle famiglie di chi va a prostitute una multa a casa, così le mogli sono ben liete, così facciamo scoppiare dei casini a casa, capito? Ma io dico, ma siamo impazziti o stiamo veramente parlando sul serio? Forse perché bisognerebbe informare il gabinetto del sindaco, che si chiama così. Esatto. E a Roma c'è una cosa che si chiama, una famiglia importante, numerosa, che si chiama Casa Monica, che non credo che non è una priorità, perché però è uno dei problemi della città, forse. Prima non solo c'è la famiglia Casa Monica, anche le metropolitane, c'è il traffico. C'è le strade che esondano ogni volta che piove, le buche, eccetera, eccetera. No, il capo di gabinetto del signor Marino, che si chiama Matarazzo. Matarazzo dice che la sanzione arriverà a casa ridendo, così ci sono le mogli liete. Matarazzo Marrazzo, no, non è per quello. No, Matarazzo può fare diverse rime da chat, però non sono quelle che noi evochiamo. Segnaliamo che ci sono anche altri problemi prima di quello, questo sicuro. Poi insiste, è difficile dimostrare alla moglie. No, sentiamo questa cosa da parte di questo genio, di questo genio dell'amministrazione cittadina, di questo genio che pensa di risolvere il problema, se fosse un problema, perché secondo me non è un problema assolutamente, della prostituzione a Roma. Certo, in qualche quartiere ci sono degli assembramenti, ma no, non è la prostituzione non è un problema, è un problema di, no, non è un problema la prostituzione, perché non è un problema strada, sì, l'abbiamo detto, io l'ho detto quella da strada è un problema, diciamo, di ogni tanto di ordine pubblico. No, essendo appena tornato dal suo splendido viaggio negli States, io diciamo farei una riunione di gabinetto per indicare le priorità, che non sono quelle di mandare a casa le prime, ecco appunto, di mandare a casa dei romani che vanno a prostitute una multa, perché tutto ciò risulterà inapplicabile. Potrebbe essere anche una sanzione per chi in qualche modo effettua delle manovre, no? Di avvicinamento. Vabbè, si può dire alla moglie, mi hanno beccato, quindi, che facevo inversione, no, quando non, no, non si poteva. Beh, però è difficile dimostrare alla moglie di trovarsi alle 2 di notte sulla Salaria. Ecco, ecco, avrei, per dirlo chiaramente. Se mio marito mi dicesse... Ero alle 2 di notte sulla Salaria, mi sono perso. Sì, esatto, è poco credibile. Avrei qualche difficoltà. Ah, la multa a chi fa manovra con la macchina. Cioè, capito, vogliono fare le multe a chi fa manovre vicino alle prostitute a Roma. Io dico, ma questi sono veramente impazziti. No, io cioè, qualche qui ho volta questa visto, onda ho preso la patente da poco. Sì. Mi è capitato qualche volta. Ma non vai vicino alle puttane, però tu. No, ma di perdermi di fare una manovra però, sulla Salaria qualche volta. Ho capito, ma non vicino alle mignotte, tu dici. No, ma no, però tu dici, metti che ti beccano a fare una manovra e che non sai guidare la macchina vicino alla Salaria e capiti di fronte a una lucciola. Sono che... preoccupatissimo. No, quello sicuro, ragazzi, cioè... ma veramente avete sentito il tono pure? Quello sono preoccupato. È questa aria, vogliamo porre fine, vogliamo fare una grande campagna contro questa con questa ondata di moralismo che si abbatte sull'Italia da parte di alcuni ridicoli amministratori locali, tra cui questa signora Matarazzo, ripeto, non eletta da nessuno al controllo del sindaco Marino, che è semplicemente un capo di gabinetto del sindaco, capo di gabinetto. Cioè non è nessuno, non rappresenta nessuno nella capitale se non se stessa, la quale dice che i clienti che fanno manovre spericolate, che si avvicinano alle puttane, che vanno a prostitute, vanno colpiti con una sanzione, così le mogli sono contente se arriva a casa la multa. Ma dico, siamo pazzi o diciamo sul serio? Siamo qui 800 24 00 24. Ah, abbiamo capito da Renzi a Porta a Porta che ha parlato con Bono, il quale tra l'altro ha diversi conti in paradisi fiscali all'estero, e poi parla di povertà nel mondo, eccetera eccetera, parla di migranti che non devono essere chiamati tali, anzi devono essere chiamati rifugiati. Parla con Renzi, ha parlato di lotta alla povertà. Ma i coglioni, abbiamo risolto grandi problemi in questo confronto tra Bono e Renzi. Qui c'è Bono Vox, ieri eravamo insieme a parlare della lotta alla povertà, della lotta alla fame, perché l'Expo è anche valori, è anche ideali, quindi finalmente qualcosa si sta muovendo. Guarda, io alla parola l'Expo è anche ideali, anche valori, metterei mano alla pistola. Cioè, veramente metterei mano alla pistola. Quando uno mi dice l'Expo è anche ideali, valori, ma quando mai? Non è così, non è così. Poi Renzi ne dice una giusta, poi non si farà niente. Naturalmente è normale che gli insegnanti si spostino in Italia, questo è buono. Gli insegnanti si devono spostare, hanno rotti i coglioni, si devono spostare. Se prendono il posto a Bolzano, dopo tanti anni, vadano a Bolzano e non rompano il cazzo. Se in Puglia ci sono, mi pare, 20.000, adesso non ricordo, insegnanti, è normale che qualcuno dalla Puglia se ne deve andare se vuole il posto fisso, perché se ci sono tot posti non è che puoi dire oh, trasferisco i ragazzi, cioè o trasferisco gli insegnanti o trasferisco i ragazzi. Ieri dal professor Del Debbio, che nega di essere candidato a sindaco di Milano, comunque di doversi candidare a sindaco di Milano, Del Debbio, conduttore su Rete 4 di una trasmissione molto nota, come sapete, eccetera eccetera, si sono presentati un paio di Casa Monica o di parenti dei Casa Monica, presenti, no? Presenti fisicamente. Molto bene, ma in studio, no? Collegati? Sì, collegati, non lo so, non è questo. A un certo punto uno dei Casa Monica ha detto, noi non siamo santi, ma anche tra i partiti ci sono molti indagati. Beh, devo dire la verità che non ha tutti i torti, signor Casamonica. Ma no, ma voglio dire, hanno rotto i coglioni a questi Casamonica, no? Ma poi in realtà no, pure la politica non è proprio esente, no? Esente da responsabilità. Vabbè, il bue che dà del cornuto all'asino, ma che c'è? Vabbè, comunque sentiamo sto Casamonica, intanto l'abbiamo detto, sentiamo sto Casamonica. Non ha nostra famiglia non sono santi. La stessa cosa però dall'altra parte. Io l'altro giorno leggevo la lista degli indagati dei vari partiti. È incredibile. Oh, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico. Ma sono una boiata pazzesca. Traffico, no. Fate qualcosa, vi prego. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presento La Zanzara. Parenzo, in provincia di Vicenza non ci stanno a quello che ha detto il Papa. Il parroco, in un paese che si chiama Castel Gomberto, anzi Valle, vicino a Castel Gomberto, Vicenza, il parroco ha convocato una riunione, hanno partecipato 250 persone, la stragrande maggioranza si è opposta a dare ospitalità ai migranti. In realtà i migranti che dovevano arrivare in questa parrocchia erano 6, forse 10. Non vogliamo islamici in canonica. Oh, a proposito di Veneto, Travaglio, i veneti non sono assimilabili? Se la prende con i veneti, eh? Anzi no, con quei veneti sentito. No, con quei quattro baluba che ruttano, certo. Insulti. E chi sarebbero questi quattro baluba? I baluba sono quella parte di cosiddetta classe dirigente che governa alcune città, alcuni comuni, che fanno riferimento, credo, all'Alberto da Giussano. Il popolo veneto non è affatto assimilabile a quei quattro baluba che ruttano insulti razzisti e che amministrano, cioè, perché poi il Veneto è la regione che ha uno dei massimi tassi di integrazione e di accoglienza. Quindi io non ho capito se chi vota Bitonci o chi vota amministrazioni leghiste in Veneto non è degno di essere chiamato essere umano, cioè un baluba che rutta insulti razzisti, cioè non va bene quando uno vince le elezioni, non va bene nemmeno, cioè, no, che hanno votato. Dice che il Veneto, regione della ma quale il Veneto trova, è il Veneto, ci sono tante cose in Veneto. E appunto è un'altra cosa rispetto alla rappresentazione che spesso una parte della politica ne dà. Questo giustamente dice Travaglio. Ma giustamente. Secondo me. Allora, succede una cosa incredibile, che nei giorni scorsi sono stati diffusi dei nomi da un sito di incontri, no? Si sono suicidate addirittura delle persone in Canada. Si è scoperto che in Italia il primato dei tradimenti femminili è di un piccolo paese in provincia di Salerno che si chiama Auletta, dove sarebbero iscritte a questo sito di incontri, dunque sito di tradimenti, il 30% di donne. 30% di donne. Le nostre schegge impazzite hanno realizzato questa intervista con il sindaco. Sentite, perché il sindaco di Auletta dice delle parole incredibili, cioè, a parte che nega che le donne di Auletta siano le donne più fedigrafe, le donne più traditrici d'Italia. Ma sentite. Pronto? Pronto, il sindaco di Auletta? Prego, chi è? Buongiorno, io sono un turista. Ho letto su internet che ad Auletta 3 donne su 10 sono iscritte a City Hard. Ma è vera questa cosa? È tutt'altro che fasulla. È non... fasulla. Eventualmente, come risultano dalle loro indagini Istat, 30... come lei è il sindaco, no, di Auletta? Come? Lei è il sindaco, lei è il sindaco di Auletta? Io sono il sindaco di Auletta, sì. Io sono il sindaco di Auletta. Sì. E quindi io sono degnatamente... Non si possono fare queste trasmissioni spazzatura. Cioè non è la verità. Spazzatura. Come? Non è la verità. Non è la verità. Io l'ho letto il mattino, scrive il record di Auletta. Io sono un turista, sto pensando di venire ad Auletta nel prossimo fine settimana. Il mattino scrive 3 donne su 10 iscritte al sito Hard. La capisco con tutta. Se lei mi capisce, io voglio venire ad Auletta, spero di trovare un sacco di maialone, poi lei invece mi dice non è vero, quindi. Quindi allora non venga. È meglio che non venga. perché sicuramente sarà deluso per questo, perché questa è innanzitutto, guardate, almeno dal sito, dalle indagini che hanno fatto, dicono che ci sono 37 donne, ipoteticamente, ma magari se io ne potessi donne... Però mi scusi sindaco, se di queste 37 donne iscritte al sito di Incontri Hard, lei me ne potesse presentare, io non dico tante, ma aspetto. Non ne conosco nessuna, e sicuramente io penso che non c'è nessuna iscritta. Io penso che non ci sia nessuna iscritta. Ma io vengo ad Auletta, lei pensa che ad Auletta, c'è ancora la cultura di arrivare illibati al matrimonio. No. E pensate, che ad Auletta, allora vengo a sposarmi ad Auletta, c'è la cultura che il ruolo della suocera il giorno dopo il matrimonio è importante. Allora, dico questo e metto il punto. Una curiosità per smentire questa cosa. No, se lei deve venire ad Auletta perché pensa, è interessata a questo, pensa che sarà, io penso che lì sarà deluso. Sarò deluso. Non gliela danno a lei, non gliela danno a lei. Non c'ho speranza da Auletta. Come? Non ho sicuramente speranza. No, sicuramente. Ma non avete una vita. Il sesso prima del matrimonio com'è considerata la Auletta? Guardate, non mi fate esternare e fare risposte una cretine. Squadrina. Beh, io le dico soltanto. Ma diciamolo, questo. Sindaco, non è mica io le dico soltanto questo, che siccome innanzitutto la media nazionale dei matrimoni dell'età dei miei ragazzi, dei ragazzi di Auletta, no, dei miei ragazzi, certo. Ma dico miei perché io sono il padre popolativo come sindaco, certo, dico, primo cittadino. Dico, i ragazzi di Auletta si sposano in età sicuramente molto più bassa della media nazionale. Questo è ottimo. E vi posso assicurare che arrivano al matrimonio. Sicuramente arrivano al matrimonio, ci sarà una grandissima percentuale altissima illibati. Grande sindaco, grazie. Allora ragazzi, non so se avete sentito, innanzitutto sdegnatamente, tutt'altro che fasulla, ma questa roba qui che in un paesino in provincia di Salerno, secondo il sindaco, si arriva è tradizione di Auletta arrivare illibati al matrimonio, dai, su, ma è stupendo, ma veramente ad Auletta è così? Veramente esistono paesi in cui ancora c'è la tradizione di arrivare illibati al matrimonio, dai. Capito bene il ruolo della suocera, cioè dopo il matrimonio il ruolo della suocera è importante, che fa? Controlla, che fa la suocera? Non ho capito. Allora andiamo con Daniele Catania, vai Daniele, non c'è, Giuseppe da Roma, dai Giuseppe. Pronto, buongiorno. Dimmi. Salve, stamattina mi sentivo sul radio, ho sentito Milan. Sì. È l'assessore di Roma, oltre. No, non era assessore, era il capo di gabinetto. Sì, capo di gabinetto, oltre a ferneticare sulla questione della prostituzione, ha detto che per il decoro della capitale vorrebbe addirittura introdurre una multa di 400 euro per chi butta mozziconi di sigarette. Ora io non sono manco fumatore. No, ma guarda, in teoria questa roba qui che ha detto sui mozziconi di sigaretta è sacrosanta. Cioè tutti noi sogniamo una città in cui il decoro regna sovrano. Solo che pensare di multare chi butta i mozziconi di sigaretta a Roma, cioè, mi sembra un'ipotesi fantascientifica. È giusto, per carità, è giustissimo. Ma parliamoci chiaro, impossibile, praticamente. No, è giusto, guarda che basterebbe, ma anche sì, ma quella è una questione di cultura, cioè quella è una questione di mentalità, non è che lo fai con le multe, perché tanto quante ne puoi fare di multe a chi butta il mozzicone di sigaretta per terra? Ne potrei fare 100 al giorno se proprio metti 200 vigili là, ma poi ad un certo punto diminuiranno queste multe, no? Fermi tutti, ci sentiamo dopo il giornale radio. Io spero e mi auguro, e vivamente mi auguro, che tu riesca a vergognarti dopo esserti riascoltato più volte dopo aver detto quelle. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Pronto, amore? Amore, Amore, dove sei? Mi manchi da morire, amore. Ho bisogno di sentire la tua voce. Anche tu mi manchi moltissimo, amore. Ma proprio tanto. Guarda, per starti molto più vicino ho scritto una bellissima poesia che vorrei anche recitarti adesso. Tu manchi, provo. Quando la luna si affaccia nel cielo... Io... Pronto? Amore? Amore? Mi sa che gli è piaciuta tanto, è svenuta. Ma una voce giusta può aiutarci a vivere meglio. Scopriamolo insieme. Voice Anatomy, il nuovo programma di Pino Insegno, io, da domenica 13 settembre alle ore 14.30 su Radio 24. E che dici? La Zanzara. Lorenzo, Milan e Salvini siete per me, mi fate ridere proprio in una maniera incredibile. Siete fantastici, siete come quelli del processo di lunedì, dite il tutto e il contrario di tutto. Siete una droga, non posso non ascoltarvi, veramente. Vi faccio ascoltare l'omelia di un prete, l'omelia di un prete in una chiesa. È il nostro amico Don Paolo Farinella che qualche giorno fa dal pulpito della sua chiesa lì in un quartiere di Genova ha sparato a zero contro chiunque, contro il governo dell'Ungheria, contro Berlusconi come gestiva l'immigrazione con Gheddafi, contro Renzi, addirittura Renzi sedicente presidente, ma davanti ai fedeli, La Costituzione ungherese è basata sulla religione cattolica. Tutti i fascisti del mondo si basano sulla religione cattolica. Dio, patria e famiglia. Sapete dove gliela metterei io, Dio, patria e famiglia? Sapete dove glielo metterei a quelli che parlano di Dio, patria e famiglia? No, sentite contro Renzi, sedicente presidente. Ma quello davanti ai fedeli in una chiesa? Sei il segretario del PD. Partito sedicente di sinistra, nonché presidente illecito del governo, perché non è mai stato eletto, hai il coraggio di mentire anche sui numeri dell'Expo di Milano e segno che è tutto possibile anche sul versante drammatico dell'immigrazione. Sedicente presidente che mente pure sull'Expo, poi addirittura paragona Renzi dall'altare, sì, questo dall'altare, poi paragona Renzi a Orban addirittura. Senti mi pare davvero folle. No ma senti il numero uno, Don Paolo Farinella. Ma è una follia, però, dai, che follia, un prete che dice la sua, dai, su. E secondo questo signore manifestare contro il suo governo è manifestare contro la patria. Non sentite nessuna assonanza con il berlusconino di Rignano sull'Arno? Io mi vergogno di essere cattolico e ripudio questa Europa. Allora, Antonietta da Milano, 800 24 00 24. Vai, Antonietta. Allora, carissimo signor Cruciani, dottor Cruciani, dimmi. Giustamente bisogna chiamarla. Senta una cosa, ma lei ha una figlia, sicuramente ha una figlia, ma un domani, sì, se sua figlia le dicesse, papà, sì, voglio arrivare al matrimonio come Dio comanda. Sì, che vuol dire come Dio comanda? Dio comanda di arrivare al matrimonio puri. Sì, puri, sì. Dio lo comanda. Penserei che penserei penso che anche Parenzo, essendo ebreo, dovrebbe ricordarsi che certi valori sono condivisibili, non solo. No, va bene, certo, ma infatti. E allora cosa c'è di male a pensare che ci siano ancora delle persone che vogliono arrivare casti al matrimonio, allora, di male. Te lo perché dico mi prende in giro? No, Maria Teresa, te lo dico, Antonietta, anzi te lo dico subito, io penso che se mia figlia mi dovesse dire, o qualcuno mi dovesse dire, ma anche mia figlia, prendiamo l'esempio di mia figlia, voglia arrivare illibata al matrimonio, francamente penserei che c'è qualcosa che non va, penserei a una malattia piuttosto grave, grave. Secondo lei, non sarei contento, ecco, penserei che c'è qualche rotella che non funziona, insomma. No, secondo lei questa cosa, no, a meno che non mi dica voglio diventare, che ne so, no, voglio diventare suora, voglio entrare in un convento, cosa che per me sarebbe un lutto infinito. Ma perché comunque sarebbe un lutto? Perché Madre Teresa ognuno ha i suoi lutti, Madre e io penso secondo lei ha fatto una grande figuraccia, ma non lo so, a me non me ne fregate, mica so, ma mica sono il fratello di Madre Teresa, mica sono il fratello di Madre Teresa. Ma perché lei si permette di prendere in giro o di dire, ma non sto prendendo in giro, ma io sto facendo un discorso, ma perché secondo me oggi se uno mi dice, se mia figlia mi dicesse, scusa un attimo, mi fai parlare un attimo, se mia figlia mi dicesse voglio arrivare illibato al matrimonio, penserei che c'è qualcosa che non funziona. La manderebbe dallo psicologo? Ma no, non la manderei da nessuno, perché non sono così. Penserei, vabbè, ho capito, cioè, le rotelle non funzionano come dovrebbero, cioè, questa è la mia idea. Invece se la sua figlia le dicesse, sai, sono andata con questo, con quello, con quell'altro, per lei è normale. Ottimo, ma certo, assolutamente. Beh, io no, diciamo. Vabbè, ma tu sei bigotto, sei di quelli là che professano professano una cosa e poi con i figli, con i figli pensano altro. Non parlarle sopra perché sappiamo dove vuole arrivare Parenzo, volevo dirle solamente una cosa. No, ma io non voglio fare nessuno stereotipo. Spero solo che lo faccia con le persone giuste. Ma che significa con le persone giuste? Già stai una cosa, per te banale, però purtroppo è così. Vabbè, Antonietta, fai parlare Antonietta, mi sembra per bene, è una brava persona, un bravo ragazzo, che ne so, questo spero, ovviamente. Banalità, Antonietta, dimmi. Spero che sia un stupratore seriale. Quello che non capisco voi, voi chi? Questo scempio, voi due, in questo scempio che fate in questa trasmissione che spero ci chiuda presto, perché dovete essere ride perché avete i soldi, ma i soldi non sono tutto nella vita. Ma lei chi l'ha mandata? Gesù Cristo qua, Dio in persona, chi l'ha mandata? No, le sto solamente dicendo che se voi pensate che la vostra linea è quella giusta, ma quale linea? Non c'è linea qui. Dovreste anche avere il coraggio di ammettere che anche altre persone sono di più di quanto voi pensate. Ma infatti io in un'altra linea giusta. Ma io infatti se qualcuno vuole arrivare libato al matrimonio, se vuole fare prete, suore, eccetera, non ha nulla in contrario. Perché prende in giro quel sindaco che ha detto che nel suo paese ancora la gente arriva, ma perché evidentemente una cazzata, non credo sia vero, perché evidentemente una cazzata grossa come una casa. Invece che sia vero tutte le castronate che voi mettete, che sembra che tutti fanno le prostitute e tutti sono, ma chi gay, ha detto che tutti, tutti... ma perché lei che discorsi... pensa dei gay, scusi signora Antonietta, che pensa dei gay? Ah, io non voglio mica fare come quello che gli ha fatto a quello della Barilla, quello glielo lascio a lei. Scusi, però io sono una libera persona, però sì, d'accordo. E non permetto di fare Antonietta, mi lasci aggiungere una cosa, che lei è leggermente meno importante del signore che ha guidato la Barilla. Non contando una merita mazza. Ho sentito in diretta come l'ha trattato, sì, ma... e non mi avete fatto parlare. Veramente ha parlato solo lui. L'avete massacrato, ma quando mai? Assolutamente. Ma quando mai? Si è massacrato da solo. Ho capito, però allora lei deve avere il coraggio di dire che ci sono persone che hanno della dignità e la vogliono dimostrare dignità. Ma lei è arrivata illibata al matrimonio? Io non ci sono ancora arrivata, però sono fatti miei. Quanti anni ha, signora? Scusi. Non si preoccupi. No, ma sta chiamando lei qui, scusi. Mi sta parlando di mia figlia, adesso non posso chiedere quanti anni ha. Io le ho detto, io le ho solo semplicemente elevato il ruolo di sua figlia, perché le ho detto, se lei ha una figlia. E appunto, ha parlato di mia figlia. E le vuole bene, e se le fa una scelta di questa genere, deve avere il coraggio di rispettarla. Ma io non ho detto che non la rispetto, dico che. Non di dire poi, che è malata o che deve portare al dottore. Ma non ho detto di portare al dottore, lei come al solito mi attribuisce. Lei ha detto semplicemente questa cosa. È malata, certo, penserei c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Vedi che lei è convinto che c'è qualcosa che non va. Ma scusi, ma saranno affari miei quello che penso, se mia figlia mi dicesse. Ma secondo lei una cosa normale. Ma non è normale, guardi, le posso assicurare, non è normale. Allora le dico una roba, io ho fatto funerali di 8 persone in una settimana, tutti malati da AIDS, perché certe facilità con cui si affrontano determinate cose hanno portato anche la Scusi, ma non è che trombare fuori dal matrimonio, allora non è che trombare prima del matrimonio porta l'AIDS, amica mia. Ma secondo lei uno malato AIDS le dice c'ho l'AIDS? No, però allora, scusi, gliela dà e se ne va. Ritorniamo. Io facendo volontariato ne ho conosciute tante di queste situazioni. Lei dovrebbe stare attento quando Maria parla. Maria Antonietta da Calcutta. Scusi un attimo, Maria Antonietta da Calcutta. Riportiamo le cose così. Lei quanti anni ha innanzitutto, signora? Non si preoccupi, Antonio. Non dirmi, cara Antonietta, ti do del tu, non dirmi che sei vergine. E vabbè, se anche lo fossi, a lei che cosa le interessa? No, non me lo puoi dire una cosa del genere. Devo andare dal dottore? Dipende da quanti anni hai. Siccome non credo che devo andare dal dottore? Se hai più di 40 anni, a parte anche meno, ma comunque mettiamo che tu hai più di 40 anni, e credo che tu abbia più di 40 anni. Se tu hai più di 40 anni e sei vergine, liberamente, ha ragione. Amici miei, che cosa ve ne frega di questo? Io ho chiamato perché ho detto che io sono d'accordo al fatto che uno possa anche preservare la sua integrità fisica e donarla a chi vuole. Ognuno può fare quello che vuole. Io sono però libero di pensare. Io sono libero di pensare che sia una malattia. Se uno arriva illibato al matrimonio, c'è qualcosa che non funziona. Allora io sono libero di pensare che una malattia può essere anche un'altra cosa, che lei ritiene che non è una malattia. Ma certo, non c'è dubbio, lei può pensare quello che vuole. E allora vede che deve rispettare anche quello che Antonietta, dice. Io rispetto allora, il sindaco. Prenda in giro chi mi pare. Io vorrei capire adesso. È un grande valore il fatto che una persona al giorno d'oggi arrivi al matrimonio integro. Ma non è un valore. Precisiamo questa cosa. Dice lei che non è un valore, però sa di fatto che siamo una foresta che cresce e voi siete quattro alberi che fate rumore e pensate che tutti la pensano come voi. Non è così. Bello questo paragone, bella poi questa metafora. Se lo dalla testa. Scusa, non Antonietta, però quanti anni hai? È la foresta quanti anni che hai? Cresce. Quanti anni hai? Quanti anni non hai? Non ti preoccupi, non glielo dico. Sei ancora vergine. Comunque sei ancora vergine, incredibile. Una foresta che cresce, che non fa rumore, voi siete quattro alberi che cadono e presto non ci sarete neanche voi, perché queste cavolate voi urlate più forte. Sì, ma lei faccia tie, però guardi che a furia di portare Don Bosco si volterebbe nella tomba. E mi tocco e chi se ne frega. Sentire come educate voi le Vabbè, scusi, guardi, io posso fottermele di Don Bosco, no? Sono libero di fottermele di Don Bosco, no? Ma lei la pagano, però io volevo Però scusi, mi sto toccando dopo quello che ha detto, non ci sarete più. Sto toccando anche la parte gonfia. Io le stavo dicendo ferma lì. Una cosa bellissima, sì, è bellissima. E potere anche realizzare questo sogno. Anche questo sogno di qualcuno Se che tu ce hai un sogno, Antonio, ma se tu hai il sogno di arrivare vergine a matrimonio, ma va benissimo, è stupendo, meraviglioso per te. Se tu vuoi coronare questo sogno anche a oltre 40 anni di arrivare vergine a matrimonio, puoi fare quello che ti pare, ma sarà consentito dire che per me è una malattia e che c'è qualcosa che non funziona nelle rotelle del cervello? Sì o no? Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Foresta che cresce, che non fa rumore, voi siete quattro alberi che cadono e presto non ci sarete neanche voi. Portacci tu a sta signora, oh. Mamma mia, oh, come mi sono toccato, ragazzi. Ma dai, per carità, va benissimo, signora Antonietta, Maria Antonietta da Calcutta, però. Ma se lei ci crede va benissimo, poverina. Voglio dire, ma che banalità è dire se lei ci crede? Allora mandiamola a fare in culo. Ma non è mandare a fare in culo, non è che l'alternativa è dire. Non è che l'alternativa è mandare a fare in culo oppure. Vabbè, se lei ci crede va bene. Dai, su. In realtà quella ti ha detto semplicemente una cosa che pensano in molti, ci crede. Ma non è così. Arrivare illibati al matrimonio. Crede, una parte di chi crede. Ma non è vero. Non è un'estrema minoranza di persone. Una piccola minoranza, ma dai, c'è chi la ma pensa ho capito, così. Ma nessuno li vuole ammazzare questi qua. Ma, certo, ma non per questo uno è un malato. Cioè, non c'è qualcosa che fila tutto liscio nel cervello. Se uno vuole arrivare illibato al matrimonio, nel cervello funziona tutto bene. Mi pare di sì. Non posso dire se c'è un patto. Ma che ti frega, non dire nulla. Matteo da Milano, 80024. Matteo da Milano, dai. Non sarei così categorico. No, ma non essere categorico, che ti frega? Facciamo dire, sono dei matti. Va bene, Matteo da Milano, dai. Allora, io volevo subito intervenire con la signora proprio. Dimmi. Mi dispiace dire che non mi dispiace, in realtà sono contento di dire che sono d'accordo con Cruciani. Mi meraviglio di Parenzo e di quante persone, in realtà non sono purtroppo una minoranza, pensino, abbiano delle priorità, abbiano dei retaggi, abbiano una moralità di quel tipo particolare, che secondo me oggi non è assolutamente attuale. Non è una cosa grave, però queste persone a volte, faccio l'esempio, vanno a votare, ok? Come fanno? Come possiamo noi pensare che una persona che arriva a 50 anni, vergine, oggi, per propria scelta, anche se parentesi secondo me la scelta è di qualcun altro, come può oggi prendere una scelta, fare un voto, votare, con dei criteri che sono attuali, che possono essere coerenti. Scusa Matteo, adesso non andiamo però su massimi sistemi. Ma vabbè, l'esempio del voto è una stronzata, però faccio per dire, io sono d'accordo. Che c'entra il voto? Che c'entra il voto? No, è una delle tante cose. Vabbè, ma che stantonietta, anche se pensa a certe cose, certo che ha diritto di votare. Una persona del genere che decide domani, che ne so, capito. Lei dice una cosa che riguardano giusta. La collettività. No, ho capito, sono pericolose. Dice. No, ho capito cosa lei dice. Cioè, se quelle idee fossero maggioranza, non avremmo, ad esempio, la legge sull'aborto, la legge sul divorzio. Su questo lei ha ragione. Ma che cioè, se quelle idee, ad esempio, ecco. Bravo, sì, no, bello. Ma se quelle idee vincono, punto però, e basta. Che devi fare? Non è che puoi. In democrazia funziona così, eh. Va bene, Antonio da Roma, dai, Antonio da Roma, Matteo, ho capito, ma Antonio da Roma, dai, forza. Antonio, buonasera a tutti. Dimmi. Io direi una cosa, la formula sarebbe un'ambulanza per tutti, perché qua è un mondo di matti, veramente. Cioè, uno la pensa come vuole, ma libero di pensare come vuole, pure di arrivare che so, al matrimonio con tre mogli, che ne so. Se non è della mia libertà, chi se ne frega? Uno facesse come cazzo. A parte che ha detto delle cose anche su di noi, quella signora. Per sì, vabbè, questo è poi il diritto, di poi io una cosa direi. Ma quello vabbè, va benissimo, Antonietta, sia lodata per sempre, Antonietta. Però il punto fondamentale è che, a mio parere, poi mi ha chiesto di mia figlia, se mia figlia mi dicesse voglio arrivare illibata al matrimonio, ma, francamente mi preoccuperei. Molto di più che una situazione nella quale mi dice, guarda, a 16 anni, a 15, a 14, che ne so, cioè, guarda, ieri sera è successo che sono uscita e ho trombato con un mio amico. Ma molto di più, sarei molto più preoccupato, ma molto di più. Quella è una situazione normale, quell'altra è una situazione insomma un po' normale, insomma, mi preoccuperebbe, un cervello no? O no? Tuttavia ti dico, mi riservo di dire libera anche lei di pensare così, però libero di pensare io come voglio, non è che mi può giudicare come io vorrei la vita di mio figlio, dei miei cari o la mia storia. Ah no, ma questo non c'è dubbio. Però scusa, io volevo dirti una cosa, perché dimmi. Stasera mi sembra che Roma nell'anno del Giubileo stia diventando una città talebana, con un moralismo tagliente, presente dappertutto. Io ricordo qualche mese fa che addirittura qualche consigliere comunale voleva la zona a luci rosse. Cioè, adesso invece... Vabbè, quello però la zona a luci rosse non era proprio una cosa talebana, No, cioè... no, dico... È il contrario. È il contrario, bravo. Adesso invece si svegliano, dopo sei mesi addirittura andiamo a punire in una cosa gravissima, perché... Se io mi voglio fare una scopata, perché per mille ragioni, a torto a ragione... No, ma per Parenzo sei un miserabile, Ho una necessità. Parenzo dovrebbe fare il consulente del sindaco di Roma Marino su questa cosa qua. Quelle perché da strada, per me, chi va con quelle da strada è un miserabile. Sì, beh, è diverso. Chi va con l'escort, è più nobile. Con l'escort è più nobile. Indietro. È più nobile. Con l'escort è più nobile, ma siamo veramente... No, diciamo che è più dimostrabile, ma... Non voglio tediarmi. È più ricco. Guarda, no, anche Lorenzo, questo è un aspetto, ma cioè, è dimostrabile molto facilmente, lo può però fare anche lei. Ma che cosa? Ti faccio notare una cosa, Parenzo. La prostituzione per strada, ma non è vero. Non è vero per niente, non è vero assolutamente. Stupido e banale da dire, che mi vergogno quasi averlo ricordato. No, però... ma non è vero assolutamente quello che dici. Allora, vabbè, cioè chi ha il telefono su internet, non è detto che non sia sfruttato anche lui, ma che dici? Ma che scherzo? questo aspetto, bravo, anche lì, cioè, ma anzi, è ancora più organizzato. E allora, non dire, allora devi essere coerente, devi dire che chiunque va a puttane è un miserabile, punto e basta, senza distinzioni. In generale, assolutamente. Oh, basta, sì. È così, va bene. In generale, sì. Dopodiché ci sono delle situazioni tipo quei bordelli legalizzati in alcune parti d'Europa in cui è. Ma guarda, che ti posso dimostrare, anche lì che c'è sfruttamento. Uno può dimostrare, anche lì può essere, qualcuno dice sfruttamento dello Stato, qualcuno dice sfruttamento da parte di un signore che affitta delle ragazze. Parlo di una cosa molto seria, che è quella del racket della prostituzione, dove ci sono dietro le bande di albanesi. Ah, perché di le bande di albanesi, di austriaci, gli austriaci imprenditori che sfruttano le prostitute non vanno bene, invece gli albanesi e i romeni non vanno bene. Lì sono, no, questo capisco. È così, è uguale, è la stessa cosa. Sono strutture in regola, convisi con lo Stato che controlla, dove le ragazze hanno un contratto, quindi una paga. Non mi risulta vengano picchiate, gli vengano messi in mozzicone. Ma che ne sai, succede anche lì, Vabbè, Antonio, che volevi dire? Antonio, che volevi dire? La situazione contraria, ma non mi risulta sia così come dici tu. Davvero, anzi non Roma talebana, ma Roma o Italia è la torre di Babele, perché mi sembra tanto che se uno paga le tasse può anche farsi scopare dal primo che viene, se uno non le paga invece è miserabile. Mi riferisco alla signora che fa il noto mestiere. Mi sembra che qua siamo, allora, o accettiamo che moralmente è esecrabile questo e ci può essere d'accordo o meno nella libertà di cui parlavamo prima. Vabbè. Altrimenti, però scusa, ultima cosa volevo dire. Dai, veloce, vai Antonio. Mi sa tanto che questa è un'aggiunta che non va d'accordo con se stessa, proprio per questa ragione, che una volta... Ma credo, adesso Marino smentirà, dirà che non vogliono punire i clienti delle prostitute, che è una cosa che non si può fare, che è una cosa difficile da realizzare, sicuro, fra oggi e domani succederà. Massimo da Monza, dai, Massimo. Buonasera Cruciani. Dimmi. Lorenzo. Io sono rimasto esterrefatto, ma più di una volta, dal fatto che ogni volta che si vuole insultare il leghista gli si dà del baluba. Mi scusi Parenzo, ma proprio lei, che è sempre il paladino dell'antirazzismo, mi dà del baluba ai leghisti. Baluba, ci tengo a precisarlo, non è una parola dialettale brianzola, come potrebbe sembrare. Baluba sta a indicare una popolazione bantù del Congo. Quindi sì, voi ogni volta... Come? No, ma è vero questo qua, Ecco, allora voi ogni volta... Se uno utilizza la parola baluba a proposito di quelli che votano Lega o di quelli che vomitano o ruttano insulti razzisti, secondo Travaglio, secondo Parenzo... L'ha detto Travaglio. Comunque, sì, è una, sicuramente è un controsenso, una contraddizione. Io non li chiamo baluba, li chiamo bru, bubu, li chiamo come volete. Sì, ma poi sono sempre esseri così indefiniti, non si sa bene chi sono questi qua, se sono a chi ti riferisci, a chiunque vota Lega, a un amministratore, alla popolazione, agli elettori di chi sono questi baluba concretamente? Sono alcuni amministratori. Ma sì, ma quali sono le frasi precise? Quali sono le cose precise? Mi pare evidente. Ti pare evidente? A te pare evidente? Anche da a me sì, alcuni li ospitiamo spesso anche nella trasmissione. Va bene, Antonio da Chieti, ho capito, ma non voglio le persone fisiche, vorrei. Antonio da Chieti. Antonio, vai. Pronto? Dimmi, Antonio. Ma io intanto vorrei, ho un pensiero in merito alla signora Materasso, la quale secondo me lei ha qualche dubbio sul marito quando esce la sera, dove va. No, ma a me piacerebbe molto che dopo questa proposta il marito della signora Materasso, che arrivasse alla signora Materasso una bella multina a casa, sarebbe veramente fantastico, sarebbe una legge del contrappasso favolosa. No, ma intanto dicevi che non è applicabile la cosa e sarebbe interessante capire se realmente è così. Io facevo l'autista, adesso non lo faccio più, e mi è successa una cosa piuttosto particolare. Cioè, ma dove abiti tu? A Chieti? Dove abiti? A Chieti? Come? Dove abiti? A Chieti tu? Sì, in provincia di Chieti. Allora che è successo? Nulla, io sono partito con il camion di consuetudine come tutti i giorni, andavo a Bari, quindi direzione sud, e come di consuetudine facevo la statale per risparmiare l'autostrada, dovevo far pipì, e anche questo come di consuetudine per gli autisti normalmente ci fermiamo sulle piazzole. Io mi sono fermato su una piazzola a far pipì, mentre facevo la pipì ho sentito una macchina che arrivava di dietro al camion, è scesa una prostituta, e di tutta sincerità non mi è mai capitato di frequentarle, però insomma mi ha fatto anche un po' di vergogna, non è che mi sentissi proprio a mio agio. Insisteva col fatto di andare sul camion per fare qualcosa e nel contempo si è fermata la pattuglia dei vigili urbani i quali mi stavano multando. Ma perché ti stavano multando? Perché stavo facendo la pipì e la pipì per loro è sinonimo e è sintomatico per chi ha finito appena di scopare. Vabbè, ma che c'è? La multa per che cosa? Non ho capito, Antonio. Perché al comune di San Severo c'è l'ordinanza, il sindaco ha fatto un'ordinanza dove i clienti non si possono fermare dalle prostitute. Vabbè, ma siamo alla follia, insomma, siamo veramente... C'è in Italia un veramente una ventata di puritanesimo, di... No, però non si fa la pipì per strada adesso, però... Vabbè, ho capito, ma uno può capitare, un signore... Ma adesso gli autisti, i camionisti non possono fare la pipì per strada, no, ha deciso Parenzo, no, non possono fare la pipì per strada. Si è fermato, gli scappava di fare la pipì, si è fermato e ha fatto la pipì. Cioè, non mi sembra da condannare questo signore, no? Poi, per caso, c'era una prostituta vicino, si è fermata una pattuglia, dopo le ordinanze ridicole di alcuni sindaci, che voleva fare la multa perché pensava che fosse dalle prostitute. Cioè, vi rendete conto che ridicolaggine? Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. La Zanzara. Allora, prima apparizione in questa stagione per uno dei più grandi esperti di prostituzione in Italia, Antonio Razzi, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera a voi, la redazione e a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Bene, ottimo. Antonio, allora qui ti ho presentato come il più grande esperto di prostituzione per vari motivi, un po' perché, come dire, nel tuo passato elvetico, beh, le prostitute hanno contribuito a renderti grande, le prostitute hanno contribuito a fare di Razzi quello che è. Razzi, diciamolo un po', ricordiamo il contributo che diedero le prostitute alla tua elezione a senatore. Ma gli davo... come si chiama, i santini, sì, per dire, dice, quando vengono degli italiani, dategli questo e digli che deve votare per me. Cioè, tu dici, altrimenti non gli fate fare più niente. Questo succedeva dove? Nei bordelli svizzeri, Antò? Sì, a Lucerna. Nei bordelli di Lucerna tu hai distribuito... Lasciavo i volantini, sì, Antò. Lasciavo i volantini, dicevo, quando vengono italiani, dico... I volantini della faccia di Pietro. E tu dici che è servita sta cosa? Ma sicuramente che è servito, perché sono stato eletto due volte, scusa, vuol dire che è servito. E naturalmente ci sono un sacco di italiani lì, e non solo italiani, che vanno nei bordelli a Lucerna. Ma a Lucerna che tipo di bordelli ci sono? Come si chiamano le maîtresse? Sono le case chiuse. Sono le case chiuse, ma c'è anche il bar, che sì, uno va al bar, c'è il bar, certo. Si prende la birra e poi c'è... Come si chiama in tedesco? Dice Contact bar, bellissimo. Che fanno il contatto con il cliente. Però tu, da che non vuoi andare, ti fai la birretta e te ne vai. Vabbè, non è che vai là, ma non è che vai lì e poi... Ma uno va lì a prendersi la birretta. Uno va lì. Io sono andato con altri amici, ho fatto la birra, ho consegnato i miei volantini. Ragazzi, quando vengono quegli italiani, dateci, che io... Vabbè, non... Vabbè, ma tu eri, già qui, tu eri già sposato, che c'entra, dai? Ma tu... Io per quello sono sposato, non è che posso andare diciamo, se fosse davvero così, comunque, Antonio, se fosse vero quello che dici, che tutti gli uomini sposati non vanno a mignotte, non vanno a prostitute, diciamo, ma... che i bordelli chiuderebbero immediatamente. Ma questo non credo. No, ma questo credo, io credo, questo credo assolutamente. Questo non credo che non vanno. Credo che non vanno. Tu invece non vai, tu invece non vai. Io non vado, che sono una persona seria. E poi io mi è venuto in mente di fare questa proposta di legge, perché ho visto che in Svizzera funziona. E come funziona in Svizzera? Scusa, è un paese democratico, più democratico della Svizzera dove lo vai a trovare? No, beh, certo. Allora, senti, ma tu tu sei andato prima del matrimonio a Mignotte, sei mai andato? No, perché... Ma che doveva andare? Mi avanzava le donne, figurati, andava a Mignotte. Avanzavano. Mi dovevo rifiutare, dico, guarda, non ce la faccio più, dico, basta, dico, per oggi niente, che mi volete fare crepare. Però dopo, ecco, io dico, mi sono sposato perché mi volevo bello rilassare, riposare, come parente riposa, capito? Però non scusami un attimo, quando ti levavi tutte queste donne da dosso che non ce la facevi più, no? Cioè che ti avanzavano pure, no? Cioè, perché insomma ce ne avevi un sacco. Ma non ti è mai venuto, e non ti è mai venuta qualche cosa? Siccome io pure mi è venuto un piccolo problemino, no? Non ti è mai venuto niente a te, che ne so, una piccola infiammazione, una clamidia, dimmi la verità, qualcosa ti è arrivato, no? Niente, devo dire che sono stato fortunato, e molte volte veramente ci vuole anche fortuna con quelli che vai, e in questo caso qui si vede che c'è un santo in paradiso che mi ha aiutato. Beh, sicuro, perché, con le migliaia, ecco, dicevo, perché mi è venuto in mente di fare questa proposta di legge qui sulla creazione dei bordelli. Deve essere le case chiuse, che la gente, oltre che va belle pulite, belle lavate e stirate, però le donne riceveranno, quando che ormai che non hanno più la possibilità di fare. Riceveranno la pensione, almeno, perché pagano i contributi, pagano le tasse. Certo, è normale. Però io dico una cosa, Antonio, io dico, è una cosa, sarebbe una cosa logica e normale, ma purtroppo non si fa. Non è uno scandalo. Io penso che anche la Chiesa lì sarebbe, diciamo, a favore. Beh, non credo, questo non credo. La Chiesa a favore dei bordelli, non credo, la Chiesa a favore scusa, ormai Papa Francesco è un papa molto moderno. Sì, cose, ma sono sicuro che questi faranno alla fine sposare anche i preti. Ah, tu sei a favore del fatto che i preti si possano sposare? Ma sicuramente io sono favorevole a questo, perché almeno formano una famiglia e si sente belle calma e tranquillo, hai capito? Ah, invece di andare con i ragazzini, dici, preti, no? Invece di fare... Chi lo sa, magari qualcuno pure, non lo so, io non ho mai... Però, ecco, si evita queste cose, e penso che contribuisce anche alla famiglia. Dopo insomma, la proposta di Razzi, anche i preti si devono sposare. Adesso voglio capire, Antonio, che ne pensi di questa cosa, che a Roma vogliono multare i clienti, la giunta Marino ha in mente di multare i clienti del prostituto e far arrivare la multa a casa. Fermi tutti. È una vergogna che Radio 24 faccia una cosa del genere. Forse una lavatina di capo a te ti farebbe bene. La Zanzara. Non ce la faccio più, non vi supporto, è un programma brutto, è brutto. Dico soltanto questo, dei ragazzi di Auletta, no, dei miei ragazzi, certo. Ma dico miei, perché io sono il padre popolatino come sindaco, certo, dico, primo cittadino. Dico, i ragazzi di Auletta si sposano in età sicuramente molto più bassa della media nazionale. Questo è ottimo. E vi posso assicurare che arrivano al matrimonio, sicuramente arrivano al matrimonio, ci danno una grandissima percentuale altissima, illibati. Grande sindaco, grazie. Ma adesso mi sono reso conto che in realtà il sindaco di Auletta, il mitico Pessolano, ormai è entrato tra i miei miti assoluti, non si riferiva solamente alle femmine, alle donne, ma anche ai maschi di Auletta. Sì, mi pare di sì, certo. Cioè che arrivano illibati sia maschi che femmine al matrimonio, secondo il sindaco di Auletta. Sarebbe un paese da Guinness dei primati. Ma dai, su, ma non esiste. Io voglio capire da Antonio Razzi, che intanto si sta dirigendo verso l'ambasciata coreana, capisci, Parenzo? Sì, cioè, io invece vado alla festa dei popoli. Noi stiamo parlando qui e invece Antonio Razzi sta andando a parlare con l'ambasciatore della Corea del Nord. Della Corea del Nord, dove hanno progettato, credo, un super missile, ho letto da qualche parte. Sono messo meglio io che un super razzo. Stanno progettando di costruire un super razzo. Antonio, ma è vera sta cosa del super razzo? No, un super razzo, faranno. No, assolutamente. Io adesso sono arrivato, proprio adesso ero fuori all'ambasciata e ho venuto in invito per il 67° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Democratica di Corea. Ma ci vai o no? Che c'è da festeggiare, scusa? C'è non c'è niente da festeggiare, ma è come se uno festeggiasse l'ascesa di Stalin o di Hitler. Scusi, parenti, quando tu fai il compleanno festeggi, invece fanno il compleanno. No, No, ho capito, ma se... è un anniversario, allora così... Se mi invitasse... Ognuno c'ha una ricorrenza. Ho capito, ma... Ho capito, ma io non festeggio l'ascesa del cancelliere di Hitler. E vabbè, no, invece Razzi va a festeggiare, a omaggiare la Corea del Nord. Ma vado, è normale, mi sembra una cosa... Ma normale un corno, uno andrà alla festa del 14 luglio in Francia, uno andrà alla festa del 4 luglio in America... Ma non alla festa del dittatore. Sono manevitato, io non ci vado. Ma ti credo che non ti invitano, ti invitano alla festa dei dittatori, adesso, per forza. Adesso il 21 devo andare, che mi è arrivata l'invito all'ambasciata del Vietnam, e vado. Vabbè, non è che tutti, però, tutti scusami, quelli... Chiunque ti invita ci vai, chiunque ti invita ci vai. A me, chiunque mi invita io vado. Sì, però fatti una domanda, scusami Antonio, domandati perché non vieni invitato alla festa del 14 luglio né a quella americana e vieni invitato soltanto alla festa del dittatore coreano. Io una domanda te. Alla festa di quella francese del 14 ogni tanto mi invita, si vede che adesso hanno cambiato hanno cambiato le liste, hanno cambiato personale. Altrimenti io sono membro della bilaterale con la Francia, allora mi chiedono ugualmente. Senti una cosa, io non ho capito una cosa, ma ci vai quest'anno in Corea adesso a ottobre quando fanno la festa nazionale? A Corea all'ottobre non vado più. Non vai più, come mai? No, non vado più e... Perché? T'hanno cacciato, no? No, ci mancherebbe. No, adesso sto proprio qui proprio per sapere che cosa è successo, perché credo che, visto che c'è stato queste scaramucce. Tra le due ma sto missile lo fanno o no, sto supermissile? Ma adesso lo voglio proprio domandare. Domandalo un po', se c'è così almeno... questo missile vada nelle vate. Hai capito? Ma tanto io sono uno che glielo dico chiaro, come gli dice l'ambasciatore, ma lo fate sto missile o no? papà, io dico, se no chi ha fatto? Paesano, qua la gente non lo sa, me la dice. Dovete dirmelo, questa è la traduzione dalla Bruzzese. Io ogni tanto ve lo dico in dialetto abruzzese, perché l'abruzzese è una lingua e io internazionale, ormai è una lingua internazionale, ormai gli abruzzesi sono in tutto, cioè, il come mondo. Diresti allora... ai coreani, tu, l'ambasciatore coreano sul supermissile là che devono fare, che starebbero progettando, come glielo dici tu se lo fanno? No, io gli dico, ma scusa, comba, se fatto sto missile, sto supermissile o no, che la ma fa? La da ma fa o non la da ma fa? Io ti dico, vi consiglio di no, però vediamo poi, che la ma fa. E come ti rispondono secondo te? Secondo me mi dice, te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. È quasi sicuro, è quasi sicuro. Così, capito? Però non so, questo non credo, voglio prima vedere, ecco, statale. Se non vedi, se non tocco. Io so come San Tommaso, non credo se non vedo. Voglio prima vedere, chiaro. Senti, Antonio, ma io voglio capire una cosa. A Roma vogliono multare i clienti delle prostitute. Ti prego, vai a fare una piazzata, guarda, sulla Salaria, vai, ti prego. Guarda, Giuseppe, io penso che tutti questi sindaci, io te lo dico da amico, tutti questi sindaci che fanno queste cose qui, vuol dire che vogliono la rovina delle famiglie. Addirittura dice uno sposato che va a una prostituta, gliela manda la cosa alla casa perché non la vede la moglie. Ma io non lo so, ma da che mondo veniamo? Ma questa è una donna, una signora Matarazzo, là, il capo di gabinetto del sindaco. Di stare calmo e tranquillo, di far stare le famiglie bene insieme, tranquillizzare la mamma, il papà, i figli. Certo. Questi l'avvelena ancora di più. Insomma. Vuole distruggere la famiglia. Questo è un... Un attentato alla Costituzione, ma alla famiglia, della famiglia. Quello è sicuro, perché la famiglia è sacra, e questi qua contribuiscono a rovinare le famiglie, ma ragazzi, poi ci vado pure io. Dove vai? Vado qua a via Cristoforo Colombo, sulla Salaria. Mi faccio fotografare, voglio vedere se Marina mi fa la multa. Bravo, fai una cosa del genere, ti presenti. Voglio vedere se mi fa la multa. Ti presenti con la macchina, vai lì accanto a una prostituta. Sempre d'accordo con mia moglie, che lo faccio ecco la signora Maria, per carità, Maria, tu lo sai, lo conosci, lo conoscete bene, di una gelosia tremenda, allora, mamma mia. Però glielo dico prima e dici, guarda che io vado solo per farmi fotografare, per vedere che fai tu, sindaco, se mi fa la multa o non me la fa. Comunque, guarda, la moglie di Razzi, Parenzo, è di una gelosia. È di una gelosia. È un uomo, cioè, ha quasi 70 anni, dopo 40 anni di matrimonio. Guarda, ha tre caratteristiche, Razzi. È un uomo tutto sommato bello. Beh, non esageriamo, dai. No, quell'età lì è un uomo bello. Ah, non esageriamo, dai. È bello, è ironico e soprattutto è mutuo esente, che cioè, non è una cosa. Ah, questo che c'entra adesso? Quasi 70 anni, a quasi 70 anni, dopo 40 anni, uno è geloso, dai, su. Ma dai. È comprendibile, perché è comprendibile, capito? Ma devo fare i complimenti a Davide che ha tentato un poeta. Ma io dico, Davide, una cosa, ma tu lo sai che li controlla la moglie di Razzi, li controlla Facebook, li controlla le cose, quasi li controlla il telefonino, secondo me. Questo non arriva, solo che ogni tanto quando va su Facebook, perché gli arriva pure delle cose, siccome è amica con me, no? Allora Facebook, gli arriva sì, certo. a Facebook, allora questi gli arriva delle cose. E chi è questo? E chi è quest'altro? Beh, la cosa ha ragione, capito? Ho detto, guarda, qui scrivono tutte quante figure. Senti, ma perché non ospiti qualche migrante pure tu a casa tua, che c'è una casa vuota lì in Abruzzo? Ma cosa, non è un problema, che problema c'è? Un gruppo di profughi, due o tre profughi, no, eccetera. Ma non è problema. Tu che sei stato migrante pure tu, no? Ma ti offende altro. Ti offende quando ti paragonano gli emigranti italiani che sono andati in Svizzera a quelli che arrivano adesso con i barconi? Sei offeso da questo paragone o no? O sono cose diverse? No, è molto diverso, perché noi, almeno i migranti, siamo andati perché avevamo voglia di lavorare, perché non c'era niente, eravamo in miseria, hai capito? Sì. E invece questi altri scappano perché c'è una guerra e noi non avevamo. Alcuni, altri no. Altri, e purtroppo altri in mezzo a questi qua, purtroppo, si mettono anche dei terroristi. Sì, per cui noi eravamo, quelli che emigravano una volta erano una cosa diversa. Quello andavano, il terrorismo non esisteva, noi andavamo solo per lavorare, per guadagnare. Comunque abbiamo saputo oggi che la Boldrini ha conquistato anche Playboy, pare che sia la preferita dai camionisti, sta sulla copertina, un accenno, una piccola foto e dentro... alla fine è una bella donna. Ma no, ragazzi, ma dai, su, ma come si fa, dai. Pare che sia la preferita dei camionisti. Allora io alle 20.08, lasciando il senatore Razzi al suo appuntamento con l'ambasciata coreana, vorrei fare una appello a tutti i camionisti italiani per capire se questa cosa è vera, cioè se è vero che la Boldrini, il presidente della Camera Boldrini, detto con tutto il rispetto, è diventata praticamente il simbolo dell'erotismo per quello che riguarda i camionisti. Lascia presagire, così c'è scritto su Playboy, la foto, le forme della Boldrini lasciano presagire una dirompente anima dominatrice, in bilico tra la santa e la peccatrice. Lei gli uomini li turba con quella sua aria apparentemente docile, in realtà dominatrice, un po' snob, un po' distaccata, due occhi da scelbiatta che lasciano intendere una certa predisposizione a condurre il gioco, cioè la Boldrini dominatrice. Antò, te l'aspetti o no? Cioè, te la immagini o no, dominatrice? Ma io personalmente lo conosco, è una bella donna, no? Che se ne dica... molto generale, però è una bella femmina, tu dici femmina, proprio ti ispira pure femmine, a te, femmina, no, femmina. Almeno tira, hai capito? Dopo che fa? Tira. Ho capito. Vabbè, sì. Ciao Antonio, a presto, ciao. Ok, ciao, buona giornata a tutti, grazie, ciao. Siete la spazzatura radiofonica italiana, siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio. La Zanzara. E tu non sei un uomo, Cruciano, non sei un uomo, perché non hai rispetto, non hai rispetto delle persone. So leave this one alone. She can tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Che poi, ragazzi, con tutta la monnezza che c'è a Roma, una città sostanzialmente sporca, una città che fa abbastanza schifo, diciamo la verità, cioè se il problema è quello di togliere i mozziconi delle sigarette o fare le multe per i mozziconi delle sigarette, cosa giustissima in teoria è una cosa giustissima, in pratica con una città piena di monnezza arriva una signora Matarazzo, chi era quella là che faceva parte di uno show, la signora Materassi. Io conoscevo Materazzi. Sì, la signora Materassi, là non mi ricordo di quale programma storico. No, della... Materazzi, non è quello Materazzi. No, la signora Materassi, no, quello Materazzi, no, è un altro. Era quelli che è della notte, credo. Esatto. Credo, quello, adesso quello. Aspetto. Sì, mi pare che si potrebbero. Con tutte le cose che ci sono da fare, la signora Matarazzi propone di pulire la città, di multare chi butta la cicca per terra. Michele da Roma, dai, 800 24 00 24. Michele, vai. Michele. Pronto, eccomi qua. Dimmi. Oh, comunque ho fatto adesso la salaria. Sì, è piano di... sette bagni, sono arrivato, com'è? Sono arrivato a Viale Libia, no, mi sto a preoccupare. Perché? Quattro mignotte. Solo quattro? Due di fronte all'autorizzazione e due di fronte a Sky. Sì, però... Signori, attenzione, no, ce n'erano sempre di più a quest'ora. Quindi vabbè, comunque a parte, mignotte a parte. Allora, ma non era una cosa negativa il fatto che scompaiano dalla strada? Magari hanno pensato che non è più il caso di stare per strada, ricevono col cellulare, cioè, questo non è negativo. Speriamo che ricompaia, perché so folcloristica, capito? L'automobilista, ma se tu ci vai? Un attimo, guarda qualcosa. Tu no, ci vai? No, non ci vado. Guardi e basta. No. Qui, qui in Italia sì. Una volta ad Amsterdam ho speso 1.300.000 lire. 1.300.000 lire? Ma veramente? Nel 2000, Vabbè, ma un sacco di soldi erano, scusa. Vabbè, ma all'epoca ce l'avevo, insomma. Ma come hai fatto a spendere 1.000.000 in mignotte, scusa? Guarda che brucia, Amsterdam stanno a 200 euro l'oretta. Ah, tu dici che all'epoca era facile, dici, no? Arrivare a 1.000.000. Ti parlo del 2000, poi non l'ho più frequentato. Comunque, io chiamavo perché sta storia che arrivano vergi al matrimonio, sì, è una grandissima stronzata. Io stavo all'università, sì, e mi trombavo una tizia che era una neocatecumenale. Vabbè, sono le peggio. La mattina questa era una madonnina infilzata, no? Stava col ragazzo, ci dobbiamo sposare, non possiamo fare sesso, nulla. Poi la sera mi chiamava. Ma la cosa divertente è che poi si è sparsa la voce. La sera ti chiamava e che succedeva, scusa? E veniva da me, no? Io, capirai, c'avevo uno scannatoio di fronte alla Luis, ma un po' capito. ma la cosa divertente è che poi questa lo ha raccontato telefono prima, a casa nuova telefono, aspetta, apro la parentesi, sì, Parenzo, la prossima volta che passi a Viale Parioli con la bravi, tua amichetta, sono tutti tutto bravi, ben vestito con la giacchettina blu, esco dal bar e ti faccio il matto, ti faccio cagare sotto dalla paura. Mamma poi non mia, ti faccio niente, non ti preoccupare. Perché? Che ti ha fatto? Perché lo devi far cagare sotto dalla paura? Lo devi vedere, Parenzo, che passa con la sua giacchettina, facevano 800 gradi agosto, 800 gradi, mamma mia, con l'eleganza, non c'era una signorina accanto. Ma tutto lo devi vedere come passava avanti, indietro, non se lo inculava nessuno, invidioso, stronzo che l'ha riconosciuto, però tu l'hai notato, sono stato io, bravo, tu l'hai notato, comunque chiusa parentesi, Parenzo, tu l'hai, Casanova l'ha notato però, e stavi a rosicare in Casanova, chiusa parentesi, Parenzo, in Casanova stava a rosicare però, alla fine sai come è andata a finire, il gruppo dei neocatecumenali si è sciolto, perché? Perché questa mi ha presentato un'altra amica sua, altrettanto neocatecumenale. E ti sei trombato pure questa. Che era più avvelenata dell'amica. Mamma mia, che cazzo ci hanno fatto da neocatecumenali? Ma è sempre così. Ma in caserma uno le racconta più queste cose. Quindi, ma perché? A me in caserma. Avevi bisogno di dirlo alla radio, perché manco in caserma ti credono, capito? Ma perché? Che c'entra la caserma? Scusa, no, quando al liceo si raccontavano queste cose, danze di gomito, no? Prove. Ma magari è tutto vero, scusa. Manco al liceo uno lo faceva più. La conosco ancora, la sento. Penso, capito? Adesso questo ce l'ha 50 anni, però. Ma perché non è vero? Scusa, non ho capito. Perché stai mettendo in dubbio che Michele. Ma no, ma può essere anche vero. Ma e allora racconta uno spaccato di vita e sta dicendo. Ma raccontava al liceo. Ma perché al liceo? Ma che dici? Dandoci il gomito, no? Ma non è che la crescita dal punto di vista degli anni significa. Significa idiozia, però. Che non è che ma perché idiozia uno che rappresenta. Ma perché idiozia uno che rappresenta. Sai che gli ho fatto. Dandogli di gomito. Cioè, capito? Tua, questo accadeva 14 anni fa, ok? Capito? Quando eri adolescente, cioè 40 anni fa, si facevano ste robe. poi dopo uno cambia magari. Sta raccontando una cosa dopo il racconto della signora, sta raccontando che in realtà le persone più lui dice che teoricamente più religiose, quelle che credono, eccetera, dicevano alle medie, al liceo. Vabbè, allora noi siamo tornati alle medie, tornati alle medie, Michele. Sì, non ci rompere i coglioni, siamo tornati alle medie, siamo tornati indietro, siamo tornati indietro, che vogliamo fare? Io ho fatto quella, però siamo tornati indietro, però siamo liberi. Non è che conduci, tu dirigi, cioè dirigi il traffico. La Zanzara. Alessandro da Milano, vai. Ciao ragazzi, Cruciani, io ti chiamo per dirti di portare pazienza con Parenzo, perché evidentemente tutto questo su essere bigotto nasconderà delle pieghe della tua personalità, delle perversioni intellettuali immense. Ma io non sono bigotto manco per niente, anzi mi diverto molto, ma non verrei mai a raccontarlo in pubblico, diciamo. Dottor Parenzo, io a questo punto proporrei una cosa: perché non si tromba lei la signora Vergine? Chiudiamo il cerchio così, no? No, forse non hai capito. Ho rispetto e mi può divertire chi lo fa, ma io non sono tra quelli, ma sono strano io. Ma nessuno te l'ha chiesto però, Alessandro. Io rispondevo a questo gentile radioascoltatore. No, hai trattato quello di prima come un coglione che racconta. Come meritava, cioè come uno che ti chiama e ti dice: oh, ma sai che io ho fatta quella. E ho detto, commento sapido, credo. Due estremi di un'umanità ormai al degrado. No, erano cose che si facevano al liceo. Però va benissimo farle anche a 50 anni, figuriamoci. Le però come si fa a non essere d'accordo con Cruciani? Una volta che si può essere d'accordo con Cruciani. Ma va benissimo, vogliamo la gola l'occasione. Ma su che cosa? Scusa, ma adesso non come capisco. Come può non essere strano arrivare al matrimonio Libatti? È una cosa stranissima, ma certo che sicuramente nasconde dei problemi. Ma è una cosa da malati di mente. C'è una cosa da malati di mente, diciamo la verità. Non mi permetterei di dire come se non fosse vostra. Datela via allegramente. Noi in Italia diamo un peso a queste cose esagerate. Non mi permetterei di dire che è da malati di mente, mi permetterei di dire che è una scelta strana, che io lo condivido, ma non la trovo malata, la trovo una scelta di una persona magari religiosa che fa le sue scelte, che non sono assolutamente le mie, per intendersi. Vabbè, Alessandro. Non lo so, guarda, a mio avviso sono sempre dettate poi da dei conflitti irrisolti, eccetera. Datela via, come se non fosse vostra. Il mio consiglio. Ma certo, ma adesso lascia perdere, datela via o non datela via. Quando quel sindaco là dice che nel suo paese c'è la tradizione di arrivare illibati al matrimonio, maschi e femmine, trattasi primo di una cosa non vera, evidentemente non conosce i suoi concittadini, questo è sicuro. Allora, Barone Rosso? No, Barone, Marchese, scusa, Marchese. Barone Rosso era Snoopy. Chi era Barone Rosso? Ah, è vero, era Snoopy. Era Snoopy. Ma Marchese Rosso. Ma perché ti chiamano il Marchese Rosso, Abate? Beh, è nobile lui. Molto semplicemente perché vengo da una famiglia aristocratica. Pure, dunque, sì, ma il Marchese Rosso, sì. Vabbè, il Marchese Rosso, come è rimasto colpito dalla proposta fatta oggi da un esponente, sembra di primo piano, comunque è come se parlasse Marino, della giunta romana che propone di multare i clienti delle prostitute, anzi di far recapitare la multa a casa così le mogli sanno di che pasta è fatto il marito. Sì, nei Tre Moschettieri le prostitute venivano marchiate col giglio, marchio a fuoco, sì. E diciamo, non potendo marchiare a fuoco i clienti o le medesime prostitute, questo assessore, chi per lui, ha pensato a imporre questa maschera di fango. È l'ennesimo tentativo, come dire, di moralizzazione e quindi in qualche modo raschiare consensi al ventre molle fascistoide di questo nostro paese, in questo caso dell'urbe. È molto facile. In questo senso si potrebbe tassare non la prostituzione, ma direttamente la masturbazione, Giuseppe. Ma sì, facciamo così. Tassiamo. Qualche tempo fa io ho proposto, rispondendo a una persona della Lega, ho detto: ma perché volete tassare le prostitute o i clienti. Quello però è diverso, perché tassare la prostituzione è un'altra cosa. No, i clienti. Direttamente tassiamo la masturbazione. Beh, anche allora... in modo retroattivo ovviamente. E loro come hanno risposto? No, ma è una provocazione, non c'entra niente. No. Loro, ma in questo caso immaginare che sia uno della giunta Marino che dovrebbero essere, diciamo... Ma poi tu immagini nella tua Roma, con tutti i problemi che ci sono, la Giunta Marino decide di combattere la prostituzione per strada, che è un problema, sì, certamente in alcune zone, ma non mi pare proprio il problema principale di Roma, con la multa che viene recapitata a casa, così le mogli si incazzano, perché questo ha detto la signora Materazzo, come diavolo si chiama, che è il capo di gabinetto del sindaco. In questo modo, dice lei, in questo modo si mettono un po' di paura, no? L'ha detto anche ridendo, che se mio marito così, se arriva una multa con scritto alle ore 2 sulla salaria, la moglie dice: ma che ci stavi a fare sulla salaria alle 2 di notte? Cioè, questo ha detto. Infatti, è questa idea punitiva. Tanto è vero che cosa vanno a colpire? Vanno a colpire il piacere, che in questo caso viene criminalizzato. Ovviamente hanno buon gioco, perché tutto il catto femminismo di sinistra, in questo caso sta tutto dalla loro parte, quando noi sappiamo bene, io purtroppo come puttaniere sono mancato, non mi sono mai impegnato, però ti assicuro che stasera dovevo andare a cena in una nota pizzeria del centro, prenderò la mia agila e andrò sulla salaria a puttane, sperando che ci siano già le pattuglie con i moralizzatori, sperando di beccarti qualche multa. Io voglio che arrivi qui a casa, diciamo, il verbale, sì, che mia moglie ne prenda visione, sì, anche adesso appunto li metterò subito al corrente, spero che accada. Anch'io minimo. Bisogna fare un gesto gradante, facciamoci multare tutti, andiamo tutti quanti a Mignotte e facciamoci, poi chi ci vuole andare sul serio ci va, chi vuole rimanere semplicemente a guardare. Ma il problema è che non hanno personale, e quindi è uno spauracchio che certo, hai ragione tu. È uno spauracchio che periodicamente... Ma chi l'ha detta questa cosa? Ma te l'ho detto, una che si chiama Materassi, è il capo di gabinetto del sindaco, che ha detto che è in progetto da parte della giunta, dunque è come se parlasse Marino, diciamo, una sanzione di 500 euro che arriverà a casa, così le mogli sono liete, l'ho detto anche ridendo. In questo modo... Mi sembra una cosa veramente... Cioè, io fino adesso avevo ritenuto che Marino, diciamo, meritasse la nostra commiserazione, perché non può pagare lui per tutti, questa roba però, diciamo, ci costringe ad andare, diciamo, giacobinisticamente sulla montagna del dissenso assoluto. Fa ridere perché è fatta da Marino, che voglio dire, rispetto a cose eclatanti che sono accadute non è riuscito a fare nulla. Fa ridere nulla. In generale, secondo me, a prescindere da Marino. Io non sono d'accordo sul fatto, io sono invece d'accordo sul fatto che bisogna punire il cliente, ma non perché punisci il piacere, io su questo dissento, ma anche in modo molto umile. Ancora, questo fatto dello sfruttamento. Lo sfruttamento viene colpito dalla polizia, dai carabinieri, no, il cliente non c'entra niente, il cliente non chiede la patente se è sfruttato o non si è sfruttata, va a Mignotte perché vuole scopare, ed è un sacrosanto, non dico diritto, ma è una cosa normale che non si può tarpare con le multe, perché esisterà sempre. Ma per quale? Ma lascia stare il cliente, diciamo, sfigato, che, diciamo, non, che è costretto, diciamo, come si diceva un tempo, per sfogarsi. Ma perché i calciatori, che sono pieni di figa, vengono sempre beccati con le zoccole, ad esempio, con delle macchine meravigliose? Quello bisogna domandarsi. Ma io quest'estate sono andato ad Amsterdam, che è un luogo di grande civiltà, dove le prostitute prendono in affitto i loro box visibili, sono regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, e c'è ogni tipo di offerta. Io lo metterei pure all'Expo. Perché all'Expo non hanno messo uno stand con le Mignotte? Sarebbe straordinario. Bisogna fare una grande provocazione. All'Expo bisogna fare una grande provocazione. Bellissimo. Se a Piazza San Pietro ci fosse un box con quattro, diciamo, ragazze volenterose, ovviamente anche pie, perché il sesso noi non possiamo pensare. In un mio romanzo scrissi che ci sono pompini che assomigliano a preghiere, e mi ricordo che delle stupide femministe si risentirono, e invece no, cioè rivendico nell'atto d'amore un elemento di non dico di carità, ma di grande amorevolezza e accoglimento dell'altro. Va bene, ciao Fulvio, ciao Marchese, fermi tutti. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. La zanzara. Questa è l'Italia, un paese dove si può fare tutto, dove tutto è possibile. È possibile ammazzare una studentessa all'Università di Roma, perché questo è accaduto nonostante due signori si dicano innocenti, e poi andare a fare il professore in un liceo di Roma. È il paese in cui un signore che si chiama Corona, che dovrebbe essere in galera per diversi reati, invece è in una comunità di recupero e va tutto bene, quella del signor Don Mazzi, e viene anche autorizzato da un giudice ad andare alla presentazione di un documentario sulla sua vita, con tanto di fan, di paparazzi, eccetera eccetera. E meno male che il giudice ha detto basta interviste, anzi no a interviste. È il paese dove un signore che si chiama Luigi Chiatti ha ammazzato due bambini, ha massacrato due bambini un po' di anni fa, diciamo, e potrebbe, dico potrebbe, ma sono sicuro che succederà, potrebbe uscire dalla galera, cioè potrebbe tornare in libertà, signor Luigi Chiatti, in libertà. Dove ci hanno fatto due palle così da qualche giorno sulla parola solidarietà, accoglienza, bontà. Ci sono le squadre di calcio che hanno cominciato a donare dei soldi sui rifugiati, soldi che finiranno chissà dove, chissà in quale calderone. Beh, no, dipende. Sì, ma fermo, fermo. La Roma che ha dato 575.000 euro, anche giusto. Bologna, Torino, bene. La Fiorentina. Bene. C'è Gianni Morandi che ha detto sono molto colpito dalla solidarietà, sto pensando di ospitarli a casa mia. Allora io vi dico una cosa, amici miei, che in realtà uno dei grandi motori del mondo, uno dei grandi motori del mondo non è la solidarietà, è l'egoismo. L'egoismo è il grande motore del mondo. Sono stati scritti dei libri, dei saggi su questo. Senza l'egoismo il mondo non andrebbe avanti. Senza un sano egoismo. Perché voi pensate che la signora Merkel, detta anche da me ieri, qualcuno ha protestato culone inchiavabile, ma era un modo per ricordare una frase, una presunta frase di Berlusconi, accolga i siriani così per spirito di accoglienza, di solidarietà, di liberalità, di generosità? No, perché servono gli specializzati, servono quelli bravi, il resto vediamo. Andrea da Roma, vai Andrea. Io volevo dirti di usare il tuo buon cuore per aiutare quella signora che ho chiamato prima dicendo perché metti caso che gli capita uno che la pensa come lei, tanto per scontato che sia vero quello che ha detto, e quello ha rapato fino a 40 anni, da due colpi gli fa solo male. Ma di chi stai parlando? Della signora che è intervenuta all'inizio? Sì, quella che dovrebbe essere che vergine a 52 anni, perché ho scoperto che ha 52 anni, sì, allora? Se trova un ragazzo del genere, troverà una delusione che è la fine del mondo, devi aiutarla. Cioè tu dici che dovrebbe essere aiutata la signora? Eh sì, perché almeno fargli fare un bel rapporto, se trova uno come lei, che gli scrocca due colpi, se non è esperto, diciamo, gli rovinerà l'assetto della sua vita. Che sia, ma io adesso veramente non posso credere che quella signora che ci ha chiamato prima sia arrivata a 52 anni ed è ma noi abbiamo per scontato che la gente dice la verità. Vabbè, non l'ha detto effettivamente se è vergine, ha detto si faccia i fatti suoi, però è presumibile di sì, perché ha detto bisogna dare importanza alle persone che arrivano al matrimonio vergini, lei non era sposata, dunque presumibilmente è vergine, però presumibilmente. Ma dal discorso che ha fatto io mi immagino. Vabbè Andrea, comunque tu dici bisogna che quando lo fa con una persona già navigata, perché altrimenti viene fuori un disastro. Vabbè, può darsi. Può darsi, non è un problema nostro, però potremmo, come dire, accompagnarla in questa avventura. Intanto sentiamo Gina D'Alecco. Sentiamo intanto Gina D'Alecco. Ciao Andrea, Gina. Buonasera, dottor Cruciani. Dimmi, Gina. Io ho sentito ieri sera che lei ha un problemino. Sì, volevo aiutarla. Cioè, lei deve sapere che tutte le infiammazioni dipendono dall'alimentazione. Cioè, lei mi sta dicendo che l'epididimite, la cosa, come si chiama, l'ortite, con un testicolo piuttosto ingrossato, dipende da che cosa? Dall'alimentazione. Tante cose dipendono dall'alimentazione, che c'è? Allora, ecco, le spiego. La medicina ufficiale copre sempre i sintomi e prescrive i farmaci o gli interventi chirurgici. Dimenticando il giuramento di Ippocrate che fanno quando si laurea. Gina, però adesso l'alimentazione va bene, eccetera, però spesso sono anche altre cose che non riguardano. No. Ippocrate diceva: il cibo sia la tua medicina. Va bene, prenderò. Vabbè, seguirò la sua indicazione. Cercherò anche qualcuno che magari mi dà qualche indicazione sul cibo, sull'alimentazione, anche se io sono abbastanza attento. Allora, ieri ho ricevuto molti consigli per l'epididimite, orchite, caro Parenzo, è diventato una specie di... Io intanto ti voglio dire questo, sono arrivato alla festa dell'Unità di Padova con mia figlia. Festa dell'Unità di Padova, bene, sì. E con mia figlia, sì. E sono entrato, sto ora nella libreria, sì. E sto per comprare un libro, sì. Hanno messo giustamente un tavolino con i libri gender censurati dal sindaco. Vabbè, compralo, ma puoi anche comprarlo, non credo che tu farai leggere a tua figlia qualcosa che riguarda la masturbazione o qualcosa che riguarda... No, non è nulla di tutto questo, soltanto un idiota può pensare che solo un idiota. Ma che c'entra, allora, libri pericolosi? Dico, che c'entra? No, perché non parlano di quello che tu dici. Cioè, il libro gender che sto per comprare si chiama I Papà ed è uno dei libri che quel genio di cosiddetto sindaco. Vabbè, poi vediamo che cosa c'è dentro questo libro. Vediamo, ma non c'è bisogno di distribuirli a scuola. Se non mi ricordo il cognome, si chiama Brugnaro. Infatti non li distribuiva a scuola, perché se tu lo guardi, il Papà Bis è un libro straordinario in cui spiega quali sono le famiglie moderne di oggi. È un libro a fumetti bellissimo, domani lo pubblico, intanto lo compro, 14 euro, prendi l'amore, papà te lo prende, una mezza ladrata questa, papà te lo prende pure caro, costa, ed è capito? Uno dei famosi libri censurati, il Papà Bis, benissimo, il Papà Bis. Ma per quale motivo bisogna parlare? Ma per quale motivo bisogna introdurre il libro Il Papà Bis in una scuola? Non riesco a capire. Non introdurre nessuna. Adesso sei vabbè, liberale, fammi sentire un attimo. Che c'entra essere liberali con il fatto di insegnare ai figli che esistono le famiglie omosessuali? Questo glielo dico io oppure glielo dirà la vita. Fermo lì. Ieri ho ricevuto diversi consigli, sull'epididimite. E il coito more ferarum, cioè la sodomia, espone invece al rischio di infezioni da coli patogeni ed è una cosa abbastanza consueta. Però dipende, la sodomia senza protezione, naturalmente, lei dice. Senza protezione. Matteo da Milano invece mi diceva un'altra cosa. Senti, volevo rassicurarti sul fatto che l'epididimite può tranquillamente venire in assenza totale di rapporti sessuali. Ma sì, ma io, certo, poi può darsi pure che ci sia. Sì, esatto, può darsi, ma io sono stato affetto l'anno scorso, un male porco, un coglione grosso come un melone, paura, eccetera, sono visitato San Raffaele di Milano e mi hanno detto che la causa, che è poi la causa principale, non è che altro che un reflusso dell'urina. E per le grandi inchieste della Zanzara, Roberto da Piacenza ha detto la sua. Di Roberto da Piacenza, vai Roberto. Succede che sono 31 anni che io soffro di epididimite. Cosa significa? Che c'hai continuamente i coglioni gonfi, Roberto, quello in tutti i sensi? No, i coglioni gonfi in tutti i sensi, però ogni tanto, ogni 2 o 3 anni mi viene. Mi stai facendo preoccupare, sì. Però amico mio. No, sei morto tu, ogni tanto viene, ogni tanto viene, però è dal 2009 che non mi viene. Ti voglio dire però una cosa, il mio urologo, che è un amico, mi ha detto è la classica malattia degli scopatori. Allora, ho interpellato questa sera per proseguire le grandi inchieste della Zanzara sulla mia... come dire, sul mio problemino, un urologo, un andrologo che già interpellammo una volta per altri motivi, credo per qualcosa che riguarda l'allungamento del pene, se non sbaglio. Gabriele Antonini, buonasera a voi, grazie. Ciao Gabriele, allora dimmi una cosa, dammi qualche, rassicurami ti prego, non deriva, lascia perdere il mio decorso, poi magari ti manderò dei fax eccetera, deriva dal sesso o no? Beh, diciamo che il sesso può essere una delle cause. Cioè? Aspetta, avvicina la bocca alla cosa. Sicuramente il sesso ha una valenza importante, perché come diceva quel radioascoltatore, anche i rapporti anali possono determinare nell'uretra la presenza dell'enterococco e dell'escherichia coli, che poi per via retrograda. Vabbè, d'accordo, può arrivare nel caso di sesso anale senza protezione, d'accordo, per, diciamo, per dei batteri che si possono prendere, no, però non è che per forza questa epididimite o orchite si prende con i rapporti sessuali, o è la prima causa? No, no, no, assolutamente, diciamo che in linea di massima, da un punto di vista dell'eziologia, i batteri la fanno da padrone, ma i batteri possono arrivare anche dall'urina. Una uretrite può determinare, soprattutto nella prostatite cronica oppure nell'ipertrofia prostatica, quindi quando c'è un ingrandimento della prostata, un flusso di urina verso i dotti deferenti e poi va agli epididimi, che sono queste strutture che stanno sopra il testicolo. Vabbè, però io non ho questo problema di prostatite, diciamo. Beh, la prostatite è molto frequente nei soggetti giovani. Io non sono giovane, però. E come no? No, a 48 anni non sono giovane. No, a 48 anni sei giovane. Sono considerato giovane. Ma io non ho capito. Quello che diceva la signora all'inizio, sì. Anche l'alimentazione ha una sua importanza. È ovvio che una infiammazione determinata da piccante, molto peperoncino, spezie, birra, può determinare problemi prostatici, emorroidari prostatici e quindi dare dei... Sì, però io voglio capire una cosa, Gabriele, mi devo preoccupare o no? Cioè, che devo fare? No, assolutamente, anche perché a 48 anni se non vuoi avere dei figli non è un problema, è solo un problema di sintomatologia fondamentalmente, perché le epididimiti si curano tranquillamente con una terapia antibiotica se c'è una causa batterica, oppure con una terapia antinfiammatoria. Ma possono tornare? Assolutamente, possono tornare. Cioè, possono tornare a prescindere da quello, cioè, ciclicamente? Ciclicamente è frequente nei pazienti che hanno fatto interventi alla prostata. Tante volte si consiglia la legatura dei dotti deferenti. Ma no, io non sono tra quelli. Vabbè, no, allora no. Vabbè, ti ringrazio. Ciao Gabriele, ciao. Niente, ci vediamo. Ciao. Allora, Parenzo, dove sei? Ancora a comprare libri sul gender? Ho cambiato il libro sul genere e sto adesso avanzando verso la festa dei popoli. Mamma mia, la festa dei popoli. Che è stata, come dire, osteggiata da un signore che si chiama Bitonci. Lo conosci, l'hai mai sentito nominare? Vabbè, sì, ha fatto una stupidaggine. È una stupidaggine. Ma chi è? Il compagno Gaudenzio che ti spiega a Bitonci perché ha chiuso la festa. Ma chi se ne frega? Dobbiamo chiudere la trasmissione noi. Dobbiamo chiudere la trasmissione. La festa dei popoli. Ma chi se ne frega? Alessandro da Torino, dai. Saluti. Ciao Gaudenzio. Ciao compagno, ciao compagno. Aspetta che te la passo. No, non c'è tempo. Alessandro, dai, Alessandro da Torino. Eccomi. Dimmi. Ecco, chiudiamo la trasmissione. Dimmi. È una serata triste per me, perché mi devo congedare da ascoltatore della Zanzara. No, perché, amico mio, perché? Ma è perché una volta mi divertivo. Perché un programma condotto con sagacia, sì. Con molta intelligenza, sì. Però ultimamente il livello è troppo basso. Devo dirlo, cioè, no, non voglio fare, non voglio, no, guarda, non voglio fare basso, alto e basso, però, dipende da tante cose. Guarda, hai ragione, dipendono da tante cose. Però basta, io non riesco, cioè, stasera mi sono messo in macchina, ho acceso la radio, sentivo parlare uno che si copava le neocatecumenali. Ho capito, quella è intervenuta e ha detto la sua, ma che colpa mia, scusa. Però tu sei bravo a tagliare, insomma. Ma me, ma ho capito, ma se questo qua, voleva raccontare che è andato con le neocatecumenali, mica è colpa mia. Io dopo un po' mi sono rotto le palle. Vabbè, tutti si sono rotto le palle, altri no, ma così va la vita. Ma non è così, Alessandro, dai, non essere ingiusto. Non voglio essere ingiusto, però dai, il trend, diciamo così, è un po'. Non c'è nessun trend al ribasso, perché tu pensi che parlare di queste cose significa ribasso. No, in realtà no. Non è ribasso, sei un po' snob. Fai un esame di coscienza, sei un po' snob. È vero, ma la questione è che non aggiunge nulla. Quello può succedere che una sera uno non si diverte, l'altra la sera dopo ti diverterai. Fermi tutti, ci sentiamo domani alle 18:30. Ciao. C'è una foresta che cresce, che non fa rumore. Voi siete quattro alberi che cadono e presto non ci sarete neanche voi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ormai è tutto degradato. Radio 24. La passione si sente.